Senta, ma però bisogna dire la verità, insomma, se uno sta in Parlamento è più facile pagare sto mutuo, o no? Io devo... questo è vero, se lei è in Parlamento è più facile, questo bisogna ammetterlo. Questo è verissimo, perché se io... ma però lei deve sapere che io, se l'ho preso, non è grazie al Parlamento, ma anche grazie alla buona uscita, che sarebbe la pensione che arriva dalla Svizzera, sì, che io ho pagato, che ho ripreso, e con quello ho dato il grande anticipo, se no altrimenti mo compravo la casa. Certo. Non sono ricco come lei, non so se lei... No, ma io non sono ricco, perché mi date ricco? Scusi, io sono una persona normale, borghese, insomma, benestante.